sono agli occhi, non mentirmi, dimmi dove eri tu. Ma dove eri mentre fuggivo, mentre gridavo, tu dove eri? Io so, lo vedi quel cratere, era una casa blu. Me la ricordo, ma non c'è più. Quegli alberi bruciati erano un bosco verde. Ci andavo insieme a lei per stare soli un po'. Non c'è niente qui che sia uguale a prima. Le strade sono vuote, sempre di più. Ma tu dove eri mentre gridavo? Derrubo.